Signori, buonasera. Allora, per quanto riguarda la lezione della settimana scorsa, in realtà mi hanno fatto giustamente notare che invece di essere 2011-12-02 ho scritto 2011-12-04. Per la lezione di questa settimana farò più attenzione e via. Allora, per chi non c'era settimana scorsa, da un paio di settimane, da un paio di lezioni, sto andando a registrare tramite il microfonino le lezioni e le metto su internet. Per cui, per chi non c'era la settimana precedente e per chi comunque nelle settimane future volesse andarsi a risentire anche quello che è stato detto, può andare a scaricare le lezioni stesse. Allora, gli indirizzi sono questi. Hanno tutti quanti un http://is.gd senza il www/la data, quindi 2011-11-25, 2011-12-04, la prossima sarà 2011-12-09, e poi corso base. Attenzione alle maiuscole e le minuscole perché sono importanti, quindi la C e la B maiuscole, tutto il resto minuscolo. Ora, se voi eventualmente lo fate fare da un collega, da un conoscente o a casa, aprite il vostro programma di navigazione, scrivete la stringa che vi ho segnato lì e schiacciate invio. Vi appare una schermata come questa, dove sostanzialmente c'è quel pulsante, questo pulsante qua, che è il pulsante play. Se voi schiacciate su quel pulsante lì, lui parte e vi fa ascoltare la lezione. Viceversa, per chi volesse scaricarsi il file, perché magari, che ne so, se lo scarica e poi se ne va in montagna, anziché vuole tenerselo lì perché non vuole stare tutto il tempo collegato, può andare a schiacciare sotto la scritta, sul numero che c'è sotto la scritta VBR MP3, quindi su questo numero qua, schiaccia col clic destro e gli dice salva come. E lui scarica il file direttamente sul proprio computer. Attenzione perché quel numero lì cambia di lezione in lezione, perché come dicevo la settimana scorsa, finendo 10 minuti prima anziché 10 minuti dopo, chiaramente quel numero lì dipende da quanti minuti di registrazione ci sono. La scorsa settimana è stata salvata con questo indirizzo, per cui idem come sopra, digitate l'indirizzo, vi verrà questa videata. Come potete vedere il numero è leggermente più basso, si vede che c'erano stati qualche minuto in meno. Clic destro, salva come, con nome, e vi permette di salvarlo. D'accordo? Quindi, entro domani o domenica metterò poi anche la lezione di questa settimana. Chi volesse scaricarsela già da lunedì andrà su http://is.gd/2011-12-09 corso base e ci sarà la lezione anche di questa settimana. Scusi, dove si salva in questo caso? Sul dischetto che bisogna mettere? O sul proprio disco, sul proprio disco, sul proprio disco C. Interno. Sì, sì, sì. Sì, così uno ce l'ha. D'accordo? Basta. Comandi. Quando si parla di link non si intende un indirizzo. Un indirizzo. Ecco, ma se io scarico il link con salvo con nome. Uh-huh. Beh, in questo caso il link è un file audio, per cui in realtà lui riconosce che quello è un file audio e mi scarica il file audio. Ah, ecco, perché di solito se salvo il link... Sì, sì, sì. In questo caso specifico lui si rende conto che è un file audio, per cui mi salva direttamente il file audio. Per coloro che sono arrivati in questi momenti, volevo solo dire, se volete andare a recuperare la lezione della scorsa settimana, quello lì è l'indirizzo, il primo. Come dicevo anche agli altri partecipanti, attenzione alla C e alla B che sono maiuscole e tutto il resto invece è minuscolo. Ok. Senza spazi, né punteggiatura, né altro. Allora, signori, il 2 dicembre, quindi 7 giorni fa, avevamo iniziato a vedere le proprietà degli oggetti. Avevamo visto quindi le proprietà di un file, le proprietà di più file, le proprietà di una cartella, le proprietà di un disco. Nelle proprietà di un file, quello che avevamo notato è che una delle informazioni maggiormente importanti, quali sono? Allora, il nome del file, ma che in realtà io c'ho già quando lo vedo. Poi? Le dimensioni, ma... Ok, il percorso va bene, ma c'erano tre informazioni particolarmente interessanti. Le date. Quindi per quanto riguarda le proprietà di un singolo file, le informazioni particolarmente importanti, oltre alla dimensione, giustissimo, il nome sì, importa, ma fino a un certo punto, perché in realtà io quando li vedo i file lo vedo già il nome e l'icona. Quindi sicuramente la dimensione e per il singolo file... le tre date, cioè la data di creazione, la data di ultima modifica e la data di ultimo accesso. Per quanto riguarda invece le proprietà di più file, le proprietà di una cartella e le proprietà di più cartelle, l'informazione più importante, l'informazione più interessante è quanto questi oggetti occupano complessivamente. D'accordo? Viceversa, per quanto riguarda le proprietà di un disco, e in tutti questi casi per ottenere le proprietà bastava fare clic destro sull'oggetto e poi nel menu a tendina che viene fuori andare a cliccare su proprietà. Per quanto riguarda le proprietà di un disco, ci eravamo fermati a questa videata, ovvero sia alla videata dove ci fa vedere un grafico a torta con due colori diversi. E a fianco a ciascun colore mi dice quant'è lo spazio utilizzato e quant'è lo spazio disponibile. E allora, dato che due lezioni fa avevamo visto il taglia, copia, incolla, avevamo visto lo spostamento e la copia, questo era l'argomento che andava a chiudere il cerchio con tutti i discorsi. Perché? Perché nel momento in cui io voglio copiare un file o più file da un'unità di massa ad un'altra, quello che devo fare è selezionare più file o più cartelle, ovviamente, andarne a vedere le proprietà e vedere quanto occupano complessivamente. Supponiamo che questi file occupino 64 megabyte. A quel punto vado a vedere le proprietà, per esempio, della chiavetta. Se volessi, per esempio, passare le lezioni che sono state fatte in questi giorni a una terza persona, vado a vedere quanto spazio c'è sulla chiavetta. Supponiamo che la mia chiavetta sia da 4 GB, all'interno ci sono dei file, vedo con le proprietà che rimanenti ci sono 1 GB, questo mi permette di sapere se i file io li posso copiare sulla chiavetta o meno. In questo caso 64 mega ci stanno in 1 giga? A voglia. D'accordo? Quindi l'argomento fatto la settimana scorsa andava a chiudere un pochino il discorso della copia e dello spostamento di file, perché mi permette preventivamente di sapere se i miei file ci staranno nella chiavetta anziché nel disco esterno, anziché... Ora, una settimana fa ci siamo fermati appunto a questa videata e vi avevo detto di provare a dare un'occhiata alle varie schede di questa finestra. Allora, prima di tutto, quello che volevo vedere era questo pulsante, cioè il pulsante pulizia disco. Ora, se voi avete provato a casa a premere su quel pulsante, qualcuno di voi ci ha provato? Uno. Ma un po' di intraprendenza non guasta, signori. Allora, guardate cosa succede. Lui fa una sorta di analisi del disco e che cos'è che va a controllare? Va a controllare se ci sono file nel cestino, va a controllare se ci sono file temporanei parcheggiati da qualche parte, a controllare tutta una serie di informazioni e vedete che vi dà la situazione dei file che secondo lui possono essere cancellati. Ora, 99,99 volte potete dargli tranquillamente l'ok, perché questa è un'operazione molto poco invasiva, cioè semplicemente lui va a vedere tutti quei file che secondo lui possono essere cancellabili. Navigando su internet, ad esempio, si accumulano un sacco di file temporanei che poi rimangono lì. Oppure se installate o disinstallate spesso dei programmi, si creano dei file temporanei che poi rimangono lì. Allora, questo sistema qua vi permette di andare a fare una sorta di analisi del sistema, del disco che state andando ad analizzare, per vedere se ci sono dei file che sono eliminabili. Quindi, in generale, voi potete dare un'occhiata a questa situazione. Personalmente vi direi, vedete che vi dà anche i file temporanei, i file di registro, eccetera, eccetera. Potete anche selezionare tutte queste spunte e dargli l'ok. Dandogli l'ok, lui sostanzialmente va a fare una pulizia generale. E in quel caso vedete che vi dice spazio complessivo che è possibile liberare 30,9 MB. Oh, intendiamoci, è chiaro che su un disco da 30 giga, o addirittura come in quel caso da 150 giga, 30,9 MB non è che facciano questa gran differenza. Però nel caso in cui voi utilizzate il computer molto spesso, tutti i giorni, eccetera, eccetera, ogni tanto fare questa operazione qua vi permette di andare a recuperare un pochino di spazio. D'accordo? Ma poi viene eliminato completamente? Sì, completamente, però considerate, ripeto, per l'ennesima volta, sono quasi tutti file temporanei. Cioè sono file che si crea il sistema in determinate situazioni, per cui non sono documenti miei. Sono file di sistema che lui si crea e poi lascia lì parcheggiati. Per cui li posso cancellare abbastanza tranquillamente. L'aspetto nel quale ci eravamo soffermati un pochino la scorsa settimana, nel quale ci eravamo lasciati la scorsa settimana, era la seconda scheda, cioè la scheda strumenti. Nella scheda strumenti noi troviamo tre pulsanti e guardate lì sul monitor, così non lo ripeto tante volte, sono lo scan disk, il defrag ed il backup. È chiaro dove sono andato? Nella scheda strumenti, eh? Nella linguetta denominata strumenti. Mi scusi, io sono ceccata, non riesco a vedere, spiace scrivere. Sì. Grazie. Allora, scan disk. Defrag. E backup. Allora, vediamo a che cosa servono queste tre operazioni. Partiamo dallo scan disk. Dunque, lo scan disk, come potete leggere lì sul monitor, verifica la presenza di errori nell'unità. Verifica la presenza di errori nell'unità. Che cosa vuol dire? Ora, aspettate a scrivere, prima vi spiego un attimino il discorso e poi lo mettiamo su carta. Allora, sostanzialmente i dischi sono dei dischi magnetici. I dischi magnetici, per immaginarveli, anche se in realtà non sono proprio così, assomigliano un pochino ai vecchi dischi in vinile. Avete presente i dischi in vinile? 33-45 giri. Così come i dischi in vinile di una volta, che avevano la puntina di diamante che si abbassava e si alzava e faceva in modo che si riproducesse il suono meno, anche i dischi magnetici hanno una puntina di metallo che si abbassa e si alza per permettere di leggere o scrivere dei dati. Quindi i dischi sostanzialmente hanno questo meccanismo, hanno questa meccanica che gli permette di leggere e scrivere i dati. Attenzione, questo non vale per le pennette USB o le schede SD. Quelle non hanno parti in movimento, ok? Viceversa, i dischi hanno proprio questa puntina. E da qui il motivo per il quale tutti, anche chi vi ha venduto il computer o i parenti, amici, conoscenti, vi dicono di non spegnere mai il computer brutalmente. Se qualcuno di voi si è chiesto il perché di questa cosa qua, il motivo principale è perché sostanzialmente è come se voi aveste un disco in vinile con la puntina di diamante e a un certo punto decidete di prendere la puntina di diamante e alzarla voi, senza schiacciare la levettina. Vi ricordate che se facevate una cosa del genere, lo facevate la prima volta e già la seconda volta quel disco lì lo potevate buttare. Ora, chiaramente la tecnologia è nel corso degli anni decisamente migliorata, i dischi hanno dei sistemi di controllo che permettono di evitare che se lo spegnete una volta questo si rompa, eccetera, eccetera, ma fino a qualche anno fa, non dico che fosse automatico, ma insomma andava bene una, due, tre volte, la quarta volta già non più. Quindi il arresta il sistema sostanzialmente che cosa fa? Spegne tutti i dischi e a quel punto blocca il sistema operativo. Ora, questo è un po' una curiosità che vi può essere, che può essere interessante. Comunque, al di là di tutto, che cosa succede? Succede che io il disco fisico non lo posso vedere, perché il disco fisso sta dentro il computer che sta dentro a una scatola di metallo. Ma anche se riuscisse ad aprire quella scatola di metallo, cosa ovviamente devono fare, perché appena prendono un po' di polvere i dischi non si possono più usare, ma comunque anche se riuscissi ad aprire, non è che riuscirei a vedere se ci sono delle tracce malfunzionanti. E allora sostanzialmente lo scan disk che cosa va a fare? Va a controllare la superficie fisica del disco, alla ricerca di errori. D'accordo? Questi errori sono dovuti per esempio a, che ne so, la puntina che magari qualche volta in un sbagliato riavvio o una volta che ho tolto la corrente brutalmente, magari ha fatto una micro frattura sulla superficie fisica e sostanzialmente quello rovina il disco. D'accordo? Quindi per scriverlo sugli appunti possiamo dire che lo scan disk controlla la superficie fisica del disco alla ricerca di, controlla la superficie fisica del disco alla ricerca di problemi fisici, imperfezioni, esatto. Ora, lo scan disk si faceva tantissimo con i vecchi dischetti, non so se qualcuno di voi se li ricorda, i dischi da un pollice 4 anziché da 3,25. E quei dischi, per loro stessa natura, erano piuttosto delicati, perché me li portavo in giro, perché non avevano un'intelaiatura in metallo, per cui uno se li metteva nella borsetta, nella tasca dei pantaloni, e questi si rompevano dopo il primo viaggio da una parte all'altra. Allora, tutte le volte, prima di copiarci dei dati, ci veniva detto controllalo il dischetto. Allora che si faceva? Si faceva uno scan disk. Oggi come oggi, ripeto, sui dischi fisici non ha senso fare uno scan disk frequentemente, perché il disco fisico è dentro il computer, è ben protetto da tutto l'intelaiatura in metallo, ci sono tutta una serie di molle e contromolle che permettono di evitare che si rovini, ma diciamo che lo scan disk sarebbe da fare una volta ogni 8 mesi, una volta ogni 10 mesi. Sì. Una volta all'anno. O nel caso in cui mi accorga di malfunzionamenti del computer. Quindi diciamo così, un po' come per l'automobile, no? C'è la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria. Con la manutenzione ordinaria vi consiglio di fare uno scan disk una volta ogni 6 mesi, una volta all'anno. Se però vi accorgete che il computer ha dei problemi, ogni tanto vi dà degli errori strani che non riuscite ad interpretare, prima di pensare a virus, anziché a chissà quale fenomeno naturale che sconvolga il vostro computer, provate a fare uno scan disk. Cosa succede se trova degli errori? Quindi scrivetemelo. Se trova degli errori, gli errori possono essere di due categorie. Errori critici ed errori non critici. critici e non critici. Allora, se l'errore non è critico, il sistema operativo lo risolve da solo. Se non è critico. Se non è critico, il sistema operativo lo risolve per conto proprio. Se invece si tratta di un errore critico, il computer vi avverte. E attenzione signori, perché se il computer trova un errore critico, dovete spegnere la macchina e portarla da un tecnico. Perché tipicamente un errore critico, che magari può essere una microfrattura all'interno dell'hard disk, tende poi a propagarsi. Ora, per darvi un'idea, non so se vi ricordate la pubblicità, senza fare pubblicità occulta, della Carglass di qualche tempo fa, no? Che facevano vedere che c'era la scheggiatura nel vetro e questa si propagava. Ecco, nell'hard disk succede la stessa identica cosa. Cioè, questo hard disk qua, immaginatevi, che gira centinaia di volte al minuto. Chiaro che con una rotazione del genere, anche una microfrattura tende ad allargarsi. Per cui se l'errore, vi dico, a me personalmente in 15 anni che uso il computer non mi è mai successo, però la teoria dice che nel momento in cui il computer trova un errore critico, voi dovete spegnere la macchina, prenderla e portarla da un tecnico, perché più la usate, peggio è per l'hard disk. D'accordo? Perfetto. Ecco, perché, allora qualcuno potrebbe dirmi, vabbè, ma allora invece di farlo una volta all'anno, io lo faccio una volta al mese, così se ci sono dei problemi me ne accorgo subito. L'unico problemino è che lo scan disk è un'operazione che può essere anche estremamente lunga. E soprattutto quando io faccio uno scan disk non posso usare il computer, perché sennò lui continua a ripartire da zero. Quindi scrivetevelo, lo scan disk è un'operazione che può essere estremamente lunga, ma del tipo, allora, dipende chiaramente dall'hard disk e dipende da quanto è pieno, dipende da un sacco di fattori. Può durare dalla decina, quindicina di minuti alle decina, quindicina di ore. Per cui sicuramente... Eh? Ma anche 12 ore. Sul mio vecchio computer, quando facevo lo scan disk, ci metteva anche 12 ore. Sì, perché dipende da quanto è grosso l'hard disk, da quanto è pieno, perché su un hard disk molto pieno, questo va più lento per controllare meglio, e dalla potenza del computer. Quindi l'insieme di questi tre fattori determina la velocità dello scan disk. I computer moderni effettivamente ci mettono magari qualche oretta, una, due, tre ore, però chi ha un computer magari leggermente più datato potrebbe anche riscontrare che questo ci mette una dozzina d'ore. Non vi spaventate, è tutto normale, questo sta lavorando, poveraccio. Ecco, l'altra cosa che vi invito a scrivere è che mentre fate lo scan disk non dovete usare il computer. Perché se voi lo usate, questo riparte da zero e ripara, riparte da zero e ripara. Quindi tipicamente uno vede più o meno la prima volta quanto ci mette, la volta dopo, che ne so, arriva dall'ufficio, fa partire lo scan disk, va a mangiare, si prende il caffè e poi vede se ha finito. Ci sono dei programmi antivirus che fanno defrag e scan disk automaticamente, ti segnalano e dicono è già stato controllato il disco. Ma allora quando è che lo fanno? In in background, si dice, cioè quando l'utente non ci sta lavorando sopra. Ah. Sì. Quindi basta schiacciare Sì, basta schiacciare. Adesso vi dico, è relativamente semplice come operazione, per cui basta schiacciare questo pulsante. Vabbè, qua mi chiede la password di amministratore che io non ho. Vabbè, basta schiacciare su quel pulsante e vi appare una schermatina molto semplice dove vi dice vuoi proseguire con lo scan disk? Gli date l'ok e vedete che questo inizia a tritare e sostanzialmente sta andando a controllare la vostra superficie. Ma è molto semplice come schermata. Ok, signori? Provate a farlo a casa, ma vi dico, non è niente di trascendentale. Passiamo al defrag. Dunque, la descrizione in realtà sul monitor non è particolarmente, come posso dire, esplicativa. Perché defrag mi scrive deframmenta l'unità. E vabbè, ne so quanto prima. Allora, che cosa fa il defrag? Il defrag sostanzialmente va a sistemare, a riordinare la superficie del disco. Per spiegare questo fenomeno in maniera non troppo tecnica, durante gli anni mi è venuto in mente di fare questo esempio. Voi immaginatevi una cassetta di frutta, una cassetta di mele, con mele bianche, mele rosse e mele verdi. Man mano che voi prendete una mela per mangiarvela, avrete la vostra cassetta che è fatta in questa maniera qua, e con tutte le mele sparpagliate. Ecco, quello che succede sull'hard disk è la stessa identica cosa. Man mano che voi andate a salvare un file, a cancellarlo, a spostarlo, a riscriverlo, a fare delle operazioni quotidiane, lui sostanzialmente sparpaglia questi file. Voi li vedete sempre nella stessa cartella, è un discorso proprio fisico, cioè un discorso proprio tecnico. Però quello che succede è che i file si vanno a sparpagliare sulla superficie fisica del disco. Ebbene, il defrag che cosa fa? Va sostanzialmente a rimettere tutti questi file gli uni vicini agli altri. È chiaro il meccanismo? È chiaro? Quindi la superficie del disco è intesa come contenuto. Come contenuto, sì. Quindi sostanzialmente il defrag va a riordinare i file e le cartelle sulla superficie. E fatevi proprio l'esempio delle mele, anche per iscritto. Immaginatevi proprio una cassetta di mele, fatevi magari quello schizzetto lì, dopo aver preso un po' di mele qua e là per mangiarvele. Il vantaggio è che, soprattutto per gli hard disk particolarmente pieni, il computer si velocizza. Perché immaginatevi proprio la cassetta di mele, chiaramente non la cassettina, immaginatevi una grossa cassettona di mele con mele gialle, rosse e verdi. Se dovete andare a raccogliere tutte le mele verdi, dovete andare un po' di qua, un po' di là, un po' di su, un po' di giù. Se invece tutte le mele verdi sono in un posto, tutte le mele rosse sono in un posto, tutte le mele gialle sono in un posto, nel momento in cui voglio andare a prendere tutte le mele verdi, vado a pigliarle tutte dallo stesso posto. Quindi riordinare la superficie fisica del disco vi permette di velocizzare un pochino il computer. Ora, come dicevo anche gli anni scorsi, non è che se uno ha un computer che è una lumaca, questo diventi una Ferrari. Diventerà una lumachina da corsa. Quindi, diciamo così, vedo un miglioramento delle prestazioni, ma non una rivoluzione nelle prestazioni. Okay? Però, senza dubbio, il computer fa meno fatica perché si trova tutte le informazioni vicine e non deve saltellare un po' da una parte all'altra. Quindi il vantaggio è questo, scrivetevelo se non ve lo siete scritte. Quindi un miglioramento nelle prestazioni, un miglioramento parsimonioso delle prestazioni. Ripeto, soprattutto rivolto a coloro che hanno dei computer vecchi, non pensate che dopo un defrag questo qua vada via come la luce. Però un minimo di miglioramento lo trovate. Soprattutto se l'hard disk è particolarmente pieno, soprattutto se non l'avete mai fatto, e beh, un miglioramento effettivamente lo noterete davvero. Scrivetevi anche che il defrag è un'operazione estremamente lunga. Il defrag è un'operazione estremamente lunga. Sì, equiparabile, se non addirittura un pochino più lunga, dello scan disk. Ahimè no, ahimè anche durante il defrag non si può lavorare sul computer. Questo meno ancora con il Windows 95. Sì, proprio, non ne voleva sapere. Io. Però non ricomincia da capo se lo spegni. Se lo spegni no, ma se lo utilizzi sì, lui ricomincia sempre da capo. Comunque, in generale, signori, ripeto, essendo delle operazioni che fate ogni 6 mesi, ogni anno, insomma, uno una volta all'anno si piglia la domenica, gli fa fare scan disk e le frag uno dietro l'altro e non se ne parla più. Gli dai il video e se ne va a mangiare. Sì, infatti. Ma ripeto, lì dipende proprio dal computer che si ha, perché, ripeto, io ricordo nel mio vecchio computer che questo ci metteva anche 12-13 ore, uno lo lasciava lavorare di notte e via. D'accordo, signori? Prego. No. Prima l'uno, poi l'altro. Ecco, qua la password non penso che ci voglia. Ecco, adesso ho schiacciato il pulsante defrag e il pulsante scan disk sostanzialmente vi fa venire una videata fuori abbastanza similare, ok? Vedete che è molto semplice, dovete semplicemente andargli a dire su quale disco volete fare l'operazione e poi dirgli, in questo caso deframmenta. D'accordo? Qua mi chiede di nuovo la password di amministratore, per cui non lo faccio, però appena schiaccio questo pulsante parte proprio un'animazione dove mi fa vedere che sta andando a deframmentare il disco. Ripeto, provateci a casa e così vedete un attimino cosa succede. Andiamo all'ultima delle operazioni, che è il backup. Allora, il backup sostanzialmente in italiano è stato tradotto con copia di sicurezza. Quindi quando si parla di backup si parla in italiano di copia di sicurezza. In inglese backup vuol dire proprio di sostegno, che non rende molto, perché back vuol dire dietro, up vuol dire su, per cui è come se qualcuno che vi sostenesse da dietro. Sostanzialmente cosa serve la coppia di backup? Serve nel caso in cui un disco dovesse rompersi, avendo delle coppie di backup, sostanzialmente io non perdo tutto quello che c'era su quel disco perché me lo ritrovo su un altro disco. Se si rompe un disco, io ho tutto su un altro disco. O, come si suol dire appunto, il backup su un altro disco. Imparatelo bene questo termine, perché la prima volta che viene un tecnico a casa vostra per qualsiasi lavoro, la prima cosa che vi dice è: hai fatto il backup? E uno dice, allora il sugo l'ho fatto, ho soffritto pure, backup no. Ecco, quello che vi sta chiedendo sostanzialmente è se avete fatto delle copie di sicurezza. Ora, qua ci sono alcuni argomenti da tirare in ballo. Allora, il primo di tutti è che siamo italiani. E per l'italiano tutto quello che è manutenzione è proprio un concetto lontano dalla nostra cultura, no? Nei computer non facciamo eccezione. Cioè, trovare una persona che faccia il backup, me in primis, è veramente difficile. Anche perché c'è da dire un'altra cosa importante. Il backup, signori, siccome si fa nel caso in cui si dovesse rompere un disco, gioco forza, il backup non lo posso fare sullo stesso disco. Non è che uno fa il drittone e dice: ah, piglio tutta la roba che ho nella cartella documenti e lo metto nella cartella Pinco Pallino. Perché se si rompe il disco, si rompe i documenti tanto quanto Pinco Pallino. Quindi il backup andrebbe fatto sempre su un disco esterno. Appunto, volevo dire, io tutte le sere mi facevo il backup sul disco e me lo portavo a casa del lavoro che avevo fatto il giorno. Mi faccio tutte le sere, facevo il backup su un dischetto. Bene. Lo chiudevo. Bene. Ma gli hard disk esterno, vabbè, io qua non ne ho, però gli hard disk esterni sono degli hard disk che si infilano con la chiave, con l'USB. In che senso? Con l'operazione di backup. Sì, oppure io personalmente quello che consiglio è: con una certa periodicità prendete tutto quello che avete nella cartella documenti, che verosimilmente abbiamo detto lì dentro c'è tutto quello che voi fate di giorno in giorno, di mese in mese, e fate una copia, come abbiamo visto la settimana scorsa, su un disco esterno. Mi segue? Sì, sì. Quindi si infila il disco esterno, si prende la cartella documenti e la si copia sul disco esterno. Ma anche le immagini a qualcuno, a me per esempio, interesserebbe salvare. Sì, però il discorso è: se noi abbiamo fatto le cose come vanno fatte, in teoria vi ho detto tutto dovrebbe stare dentro la cartella documenti, immagini comprese. Perché abbiamo detto sul desktop in teoria non dovrebbero starci altro che collegamenti. Poi, se voi avete anche della roba sul desktop, prendete anche quello che c'è sul desktop e la copiate sulla disk. Poi lì ognuno di noi si gestisce un po' il computer come preferisce. In pratica si mette il dischetto, si schiaccia il backup. Sì, allora io personalmente non apprezzo particolarmente questa opzione. In realtà questa opzione ve la sto facendo vedere, uno, perché sta in questa videata, e due, per introdurvi l'argomento. Il consiglio che io do è quello di fare proprio la copia come l'abbiamo vista la settimana scorsa. Copia e incolla. Quindi uno infila il disco, questo gli apre un'altra schermata, prende da una parte i documenti e lo copia dall'altra parte. Quindi praticamente però faccio solamente, mi tolgo via solamente una parte, perché i documenti non saranno tutto quello che ho. se intende i programmi no. No. I documenti verosimilmente dovrebbero essere tutti i documenti. Cioè, ciò di cui si fa il backup non è anche tutti i programmi, eccetera, eccetera, ma sono i documenti. Cioè, la copia di backup si intende la copia dei documenti. Quindi tutti quei file o cartelle che ho creato io o che in qualche modo ci ho infilato io. I programmi sono un discorso a parte. Poi attenzione, perché ci sono anche dei programmi che mi permettono di fare la copia di tutto il disco, comprensivo di programmi, comprensivo di tutto il resto. Però diciamo che sono dei programmi un pochino più tecnici, un po' come il discorso che si faceva la settimana scorsa per il recupero dei dati dal cestino. Se uno vuole fare proprio la copia di tutto il disco, c'è un programma che si chiama Norton Ghost, però è già un programma un pochino più tecnico. E peraltro costa anche abbastanza. No, però, ecco, se qualcuno di voi ha una ditta, un ufficio, una qualche attività, prende in considerazione l'acquisto di questo software, perché questo gli permette proprio di prendere tutto il disco, comprensivo di programmi, comprensivo di file, comprensivo di tutto, e ve lo copia da un'altra parte. Un domani che c'è un qualsiasi problema sul disco, voi potete pigliare il disco, buttarlo nella spazzatura, rimetterne un altro e con Norton Ghost fare la copia identica a come ce l'avevate. Quindi per qualcuno che ha un'attività, un piccolo negozietto, cosa del genere, spende, adesso io non so quanto possa costare, 100, 200 euro, ma fossero anche 300, anche 300, sì, però voglio dire, la volta che serve quei 300 euro uno è contento di averli spesi. No, vengono tenuti comunque in memoria. Con Norton Ghost vengono tenuti in memoria. No, vengono tenuti in memoria. D'accordo, signori? Volevo chiedere, e con lo zip velocizza ulteriormente? No, lo zip... lo zip... è un programma che serve per comprimere. Velocizza ulteriormente. E per sua natura, se lui comprime, vuol dire che fa un'operazione in più, per cui rallenta. Ah, rallenta. Rallenta. Poi, lo zip ha diversi livelli di compressione, più è alto il livello, più rallenta l'operazione. È anche vero che meno occupa sul disco. Per cui uno deve un attimino capire quanto è grosso il disco di origine, quanto è grosso il disco di destinazione e se ne sente la necessità, certo. Sì. Ma allora, il backup io personalmente oggi come oggi lo consiglio decisamente su un hard disk esterno. Per diversi motivi. Una cosa che di solito getta nello sconforto la maggior parte delle persone è che i CD hanno una vita relativamente breve. Nonostante le persone abbiano la falsa convinzione che i CD durino per anni e anni, non è vero. Questo è vero per i CD masterizzati con metodo industriale. Cioè, se uno compra l'hard disk, il CD dei Pink Floyd comprato 10 anni fa, lo risente oggi, funziona perfettamente perché c'è un processo industriale alle spalle che permette una registrazione ottimale. I CD masterizzati con i computer da casa tipicamente hanno una vita utile relativamente breve. Breve vuol dire che va dai 2 ai 6 anni, mediamente. e poi si cancellano. Mentre quelli che compri, beh, per sempre è una parola grossa, diciamo che nulla è per sempre, neanche il diamante che vendono. Però voglio dire, sicuramente hanno una durata che può raggiungere tranquillamente i 10, 15, 20 anni. Sì, sì. Mentre altrimenti non ha senso. No, però è proprio il processo di masterizzazione che è diverso, perché è un processo industriale fatto con macchine industriali che fanno solo quello. Viceversa, i CD o i DVD masterizzati con il proprio computer hanno una vita media, poi per carità c'è anche quello che fra 15 anni funziona ancora, però mediamente hanno una vita che va dai 2 ai 6 anni. Per tutto, quelli masterizzati con il nostro computer. Gli hard disk invece tendono a durare di più. Quindi è facile che un hard disk di una decina d'anni tranquillamente funzioni, cioè, almeno che non gli faccia prendere botte o lo metto in cantina dove c'è l'umidità, tendono a durare parecchio negli anni. Comunque, dopo un 5-6 anni, il consiglio spassionato è, se ci sono dei dati potenzialmente interessanti, importanti, soprattutto perché a distanza di 5 anni gli hard disk tipicamente raddoppiano, se non triplicano. Uno prende il vecchio hard disk, lo copia su quello nuovo e va avanti così. Prego. Posso fare una domanda? Sì. Io lo farò come hai detto tu, col copia e incolla, ma se lo dovessi fare col backup, sì, sono curioso di sapere se nell'hard disk esterno o altre cose, facendo il backup, vengono cancellate? No, non vengono cancellate, non vengono cancellate. Tenete conto che però, tipicamente, se uno fa il backup, può prendere in considerazione proprio la possibilità di comprare un hard disk che serva solo per fare il backup. Però, comunque, anche se ci sono delle altre cose, non vengono cancellate. L'hard disk esterno, una volta che faccio un backup, se dopo 12 mesi ne faccio un altro, mi riscrive sopra, posso usare sempre lo stesso? Sì, può usare sempre lo stesso. Ok, signori. Allora, le altre schede non le andiamo a vedere perché, a parte che non in tutti i computer ci sono, ma poi comunque sono un pochino più tecniche come schede. Quello che invece vorrei fare adesso è la combinazione di tasti CTRL più Alt più Canc. Allora, noi abbiamo già visto qualche combinazione di tasti, abbiamo visto che questa scrittura significa che tengo premuto un pulsante e poi, non in contemporaneamente, ma mentre tengo premuto il primo, premo anche l'altro. In realtà qua i pulsanti sono 3, per cui mentre tengo premuti i primi 2, schiaccio anche il terzo. Contro al Canc sono 3 pulsanti che stanno sulla tastiera. Chi ha lavorato o lavora su Windows 95, Windows 98, questa combinazione la conosce molto bene, perché quelli erano sistemi operativi sicuramente molto soggetti a errori di sistema, la classica schermata blu. Con il Windows XP sono decisamente migliorate le cose, con il Windows 7 devo dire che ha una discreta stabilità. Allora, cosa succede quando voi andate a digitare contro al Canc? Si fa con due mani. Sì, d'accordo. No, anche se uno riesce a farlo con 3, cioè, no, va a fare pianoforte a quel punto. Mentre, non so, per esempio, CTRL è sulla sinistra, l'altro è in alto, non so. A destra. Canc è in alto, a destra, cioè in E ma la domanda qual è? Con due mani. Vabbè, aspetta. Allora, Bill Gates? Sì? Allora, qua c'è una signora che non è d'accordo. Va bene. Per la prossima settimana lo cambiano. Contro l'alt maiuscolo. Tutto a posto. Allora, sì, per questa settimana è ancora così. Quindi, allora, con due mani, giustamente, perché sono un pochino distanti, quindi con la sinistra contro l'alt, con la destra il cancio. Allora, quello che succede è che, a seconda delle versioni, col Windows XP in realtà viene fuori una finestrella, col Windows 97 viene fuori una roba del genere, comunque, che sia una finestrella, che sia una roba del genere, vi vengono fuori alcune opzioni. Quindi, Ctrl-Alt-Canc mi permette di visualizzare delle opzioni. Ripeto, con Windows 7 sono proprio delle opzioni messe così. Con l'XP invece vi appare direttamente una finestrellina. Allora, le opzioni sono, vabbè, blocca il computer. Allora, blocca il computer, che fa? Vi riporta alla schermata di login, cioè la schermata dove dovete mettere nome utente e password. Avete presente quando accendete il computer, che c'è il nome utente e password? Blocca il computer e vi riporta alla schermata del nome utente e password. Perché può essere utile questa cosa qua? Nessuno di voi lavora in un ufficio, eh? Diciamo che quando uno va alla macchinetta del caffè, controlla il cancio, blocca il computer ed evito che qualcuno ci vada a mettere le mani sopra. Quindi il bloccare il computer tipicamente si fa quando ci si allontana dalla postazione di lavoro in un ambiente con persone non facenti parte della famiglia. Oddio, poi non entro nelle dinamiche familiari, magari anche all'interno della famiglia, non so. Quindi mi allontano dal computer, blocco il computer. Quindi sostanzialmente quando ritorno mi basterà inserire la password, non è che lui ricarica tutto, mi ritorna esattamente come l'avevo lasciato. Cambia utente, vabbè, non sto a spiegarlo, è abbastanza intuitivo, mi permette di andare da un utente all'altro. No, non è contento, come si intende? Cioè, spieghi bene utente. Allora, un computer può avere più di un utente configurato. Ora magari... Ah sì, quello che diceva. Sì, può avere più di un utente configurato e... per esempio in un ambiente anche di familiare, uno può avere magari, ne so, l'account della madre, l'account del marito, l'account del figlio e così via del genere, e mi permette di passare da un utente all'altro. Cambia utente. Chi usufruisce, insomma, del computer per cambiare il nome di chi va, sta utilizzando in quel momento il computer. Esatto. Il disconnetti, è simile al blocca computer, nel senso che mi ritorna la schermata di login, ritorna alla schermata di login come il blocca computer. solo che in gergo si dice proprio uccide tutte le applicazioni. Cioè, mentre con il blocca computer, quando io reinserisco la password, lui rientra dentro così come l'avevo lasciato, con il disconnetti lui prima uccide tutte le applicazioni e poi mi rimette alla schermata di login. Quindi quando io reinserisco la password, lui va a ricaricarsi tutto quanto. È una specie di soft reset, di reset morbido. No, quando poi rifaccio il login, devo poi riavviarle tutte quante. Beh, quindi sostanzialmente questa manovra qua si fa, se uno vede che ci sono dei problemi sulla macchina perché continua a dare errori, eccetera, eccetera, uno invece di riavviare proprio il computer, quindi il classico spegni e riaccendi, fa un disconnetti. Quindi il disconnetti mi permette di resettare tutto quanto e rientrare nuovamente. Ma non è proprio un riavvio, diciamo riavvia i programmi, che non è proprio un spegnere tutto il computer e riaccendere tutto il computer, è una via di mezzo, via. Poi cambia password, non sto a spiegare cosa serve, serve ovviamente per cambiare la password. Per cui se qualcuno di voi se lo chiedeva, per cambiare la password si fa così. Senta, posso dire, io per esempio non ricordo la password che ho dato all'inizio perché ero abbastanza agitata, quindi prendo il tempo. Per visualizzare quella password delle origini che probabilmente ho dato con il tecnico per cui... L'ha già spento il computer? Sì. L'ha già riacceso? Ci lavora normalmente? Sì, però... Non c'è password? No, perché quando io voglio utilizzare, fare un acquisto che mi chiede, mi dice... Quella un... Ah, quella è un'altra sì, password. Mi dice non corrisponde alla password di Windows. Sì, la password di Windows non c'è. E come mai mi compare non corrisponde? Perché probabilmente lei gliene mette una, ma la password di Windows non c'è. E quindi come... perché... Schiaccia invio. Invio. Sì, perché non c'è password. Se lei ha spento una volta il computer, l'ha riacceso e ci lavora, vuol dire che non c'è password. Quindi anch'io che non ho, io non ho la schermata di login. E vuol dire che non c'è la password. E come devo fare a fare questo? Col cambia password. Perché lui chiederà la password, come il PIN dei cellulari, no? Lui chiede la password vecchia. E uno semplicemente schiaccia invio perché la password vecchia non c'è. E poi richiede due volte la password nuova e uno si va a inventare una password nuova. L'unica cosa poi sia risegnatevela perché sennò la volta dopo non rientrate più. Oppure io che sono io, questo computer forse non mi serve neanche. Sì. Ma diciamo che se è un portatile che vi portate in giro, una passwordina ci serve. Perché casomai lo dovesse... lasciare da qualche parte, per carità, uno un po' scafato. Ma per carità, ma se me lo piglia un ragazzino di 15 anni, quantomeno non gli lascio la soddisfazione di poterlo usare, insomma, no? Almeno la fatica di resettarlo e reinstallare tu. Va bene. Allora, l'ultima delle opzioni, che poi è la più interessante... Sì. Allora, il cambia password, signori, io qua non lo faccio semplicemente perché non so qual è la password di questo computer. Però se voi schiacciate su cambia password, lui vi fa apparire una schermata dove vi dice inserisci la vecchia password. Una volta che avete inserito la vecchia password, vi fa apparire una schermata dove dovete ripetere due volte la nuova password. Ma se voi avete lavorato con un telefonino e avete cambiato una volta nella vita il PIN o il PIN del telefonino, è lo stesso meccanismo. Gli chiede il PIN vecchio e poi due volte il PIN nuovo. Perché due volte? Perché siccome mi fa apparire degli asterischi al posto delle lettere dei numeri, casomai doveste sbagliare, riscrivendolo due volte, lui vi dice, attenzione, non va bene. D'accordo? D'accordo? Ora, l'ultima voce è il gestione attività. Il gestione attività è quello che veniva chiamato fino alle versioni precedenti quindi il gestione attività, non ve lo ricordate con questo nome perché non so perché l'abbiano tradotto, dato che per 10 versioni di Windows si è sempre chiamato task manager. Adesso poi lo vediamo che cos'è. Però il gestione di attività è quello che tipicamente viene chiamato il task manager. E guardate che non sono solo i tecnici che lo chiamano così, Cioè fino all'XP si è sempre chiamato task manager, quindi Windows 95, 90, 98, XP, XP seconda edizione, cioè sempre task manager. Allora, che cos'è il task manager? Allora, il task manager, è una finestrella con diverse schede. Disegniamocele sugli appunti. Allora, applicazioni. Processi. Servizi, prestazioni, rete ed utenti. Applicazioni, processi, servizi, prestazioni, rete ed utenti. Sotto c'è un'informazione importante che il numero di processi, in questo caso vi dice 40, l'uso della CPU, in questo caso 0%, e l'uso della memoria, in questo caso 27%. Allora, guardate la CPU, vi ricordate che è il processore, cioè il cervello della macchina. Guardate un secondo adesso quando avvio un'applicazione. quando vi è un'applicazione, guardate la CPU come cambia. Vabbè, questo computer è parecchio veloce, però lo vedete, no? Come... Lo vedete? Cambia mano a mano che io apro o chiudo le applicazioni. Perché? Perché quello va a, come dire, ad elaborare le informazioni per tirarle fuori. Ora, se la CPU ha un uso molto pesante, dove con uso molto pesante intendo 90, 95, 100%, anche quando voi non state facendo nulla, vuol dire che probabilmente qualche programma si è bloccato. Infatti vedete che lui in questo momento è a riposo e come CPU mi segna lo 0%. Ci sta che magari la CPU lavori un pochino, perché magari ci sono dei processi, dei programmi che stanno girando. Però se la CPU, nel momento in cui aprite il Task Manager, vedete che è a livelli di 90, 95, 100% e voi non state facendo nulla, quello è indice che un programma si è bloccato. Allora, la scheda applicazioni che cosa fa? Vi fa vedere i programmi aperti. Quindi le applicazioni sono i programmi aperti. Vedete che io in questo caso ho due programmi aperti, che sono uno questo e due questo, lo vedete? Una e una due. E lui infatti qua vi segna 1 e 1, 2. Nel momento in cui un'applicazione si blocca, lui nello stato, invece che in esecuzione, vi dice non risponde. Non risponde. Scrivetevelo questo, signori. Quindi in quella finestra lì delle applicazioni c'è la lista dei programmi aperti. Se qualcuno è bloccato, vi dice non risponde. E allora in questo caso voi che cosa potete fare? Potete cliccarci sopra e poi schiacciare sul pulsante termina attività. E su, vedete che ci cliccate sopra e poi termina attività. E lo chiude. Perché si fa questa operazione? Si fa perché quando i programmi si bloccano non si riesce a chiuderli con la X. Quando i programmi si bloccano, non si riescono a chiudere con la X. Allora, il modo per, come si dice in gergo, ucciderli, è questo qui. Una programmazione non corretta li fa entrare, come si dice in gergo, in loop. Loop vuol dire che continuano a girare senza trovare una soluzione. Quindi, ripeto, da questa schermata qua si può uccidere il programma anche quando questo è bloccato. Ve lo faccio vedere. Vedete che io la X è qua dietro, per cui non sto andando a schiacciare la X. Se gli dico termina attività, lui mi chiude la finestra. D'accordo? Sì. Perfetto. Vediamo la seconda scheda, che è la scheda processi. Ecco che nella scheda processi oltre ai programmi aperti vi dà tutti i programmi, la scheda processi, oltre ai programmi aperti dall'utente, vi dà tutti i programmi attivati dal sistema operativo. Infatti vedete che lì ci sono più processi. Poi questo è un computer utilizzato relativamente poco, ma se lo fate sul vostro computer molto probabilmente la lista sarà piuttosto nutrita. Sul mio computer non bastano 3-4 pagine di tutti i programmi che vengono attivati dal sistema operativo. Quindi quello vi dà sostanzialmente la lista di tutti i programmi. Diciamo così, è più didattico come discorso. Però anche in questo caso uno può andare a vedere se ci sono dei programmi che stanno assorbendo tanta CPU. Perché vedete che lui qua a fianco vi dà quanta CPU stanno occupando. Se vedete che uno di questi programmi sta occupando, sta mangiandosi tanta CPU, vale la pena informarsi su che cosa fa quel programma. Ci si informa su internet, magari inserendo il nome del programma, ci si informa col collega, ci si informa. Però se vedete che il vostro computer è rallentato, che la CPU continua a tritare, vale la pena andare a dare un'occhiata a qual è quel processo che sta facendo andare in tilt la vostra macchina. No, lo puoi uccidere, però chiaramente non devi uccidere un programma che magari serve per qualcosa. Quindi prima di uccidere un processo, attenzione a questa distinzione, signori, mentre le applicazioni le potete uccidere tranquillamente perché sono programmi che semplicemente si sono bloccati, i processi non li potete uccidere così. Prima dovete informarvi su che cosa fanno e poi decidere se ucciderli o meno. D'accordo? Lasciamo stare i servizi. Vediamo invece le prestazioni. Allora, nelle prestazioni, come potete vedere, c'è un grafico che procede nel tempo e sostanzialmente vi fa vedere l'utilizzo della CPU e l'utilizzo della memoria nel tempo. Diciamo che è più, come posso dire, una curiosità, via. Non è che mi dia delle informazioni particolari. In tempo reale. Eh? In tempo reale, sì. Quindi se io avvio un programma o altro, posso andare a vedere sul grafico che cosa succede. Non è una necessità impellente. Molto velocemente, stesso discorso, se vado sulla scheda rete, questo mi fa vedere il traffico dati sulla rete, quindi se siete collegati a internet vedete il traffico dati. Ora signori, qua è tutto piatto. Se voi state caricando o scaricando dei file, vedrete chiaramente quella curva che va su e giù. E potrebbe essere anche indice magari di una cattiva connessione. Soprattutto chi ha le chiavette vedrà dei grafici estremamente irregolari. Chi si collega con la chiavetta USB. Le chiavette USB non è che abbiano un segnale particolarmente splendido. Per cui vede questi grafici che fanno chi ha una connessione ADSL tipicamente vede un grafico abbastanza regolare. Sì, mi dice la velocità alla quale sta lavorando. E poi gli utenti, mi dice quali utenti sono collegati al nostro computer. È ovvio che in un computer casalingo l'utente sarà sempre ed esclusivamente uno. Anche se uno è collegato in via wireless? Al computer ci si collega uno per volta. Sì. La schermata di login la faccio uno solo. Non c'entra niente il wifi. D'accordo, signori? Diciamo che gli utenti, ma più che altro ha una sua importanza, per esempio sui server dove si collegano tante persone contemporaneamente e lì vedo la lista di tutti quelli che sono connessi. Su un computer casalingo mi dà un solo utente. Guarda, ci sono tutte le persone che si stanno preparando, benché io non abbia detto che è finita la lezione, per cui non ti sento. No, quello è il tab. Il pulsante del shift è quello che sta a sinistra tra il tasto control e il tasto maiuscolo ed è fatto così. Control e il tasto lucchetto. Quindi sotto c'è il CTRL. Sopra c'è il lucchetto e in mezzo c'è lo shift. Prego. Allora, signori, per questa settimana io qua terminerei qua. Provate a dare un'occhiata a casa allo scan disk, al defrag e al task manager. Buon fine settimana, ci vediamo alla prossima settimana.